abbiamo tre contingenti della questura schierati a difesa di un obiettivo sensibile, la provincia in corso Inghilterra. Sono arrivati un gruppo di manifestanti, una cinquantina di ragazzi incappucciati con i caschi, armati di mazze da baseball e bastone. Dopo pochi minuti praticamente io sono stato colpito al casco, che si è spaccato, e poi con un bastone successivamente al braccio. Lei in questo momento ha un braccio rotto, ecco, l'hanno colpita con un bastone sia al casco che al braccio, erano ragazzi giovani, chi si è trovato di fronte? Le prime due file erano ragazzi travisate o da sciarpe o da caschi. Sembravano ragazzi giovani, ma non tanto giovani. Secondo il mio parere personale, che rimane personale, non erano studenti, erano più attivisti o ragazzi dei centri sociali, anche perché erano ben organizzati. Poi sono stati sparati fumogeni, petardi, lanci di pietre, quindi si è capito anche poco. Io poi dopo pochi minuti comunque sono stato trascinato via da un collega che mi ha messo al sicuro. Quanti hanno colpito lei però? Era una persona o più d'una? No, più di una, più di una. A fronte di quello che è successo a lei, adesso ci sono anche tante, diciamo, polemiche per altri casi successi invece a Roma, più agenti che fermano per strada, casomai, un ragazzo inerme. Queste immagini sono abituato a vederle, nel senso che si deve anche conoscere bene la situazione. Almeno io personalmente come poliziotto non mi sveglio la mattina con l'idea di andare a picchiare i ragazzi.